Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi partiamo dalla visita italiana del Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, come sapete preceduta di fatto da settimane di polemiche, in alcuni casi scontri. Insomma, un dialogo che racconta in qualche modo la complessità del momento che vive l'Unione Europea. Questa mattina l'incontro con Pietro Grasso, poi l'appuntamento clou con il Premier. Allora, subito il punto di questa giornata romana che ha fatto per noi Alessandra Schepisi. Costruire ponti, voltare pagina dopo le schermaglie dei mesi scorsi, è venuto armato di buone intenzioni Jean-Claude Juncker in Italia per la sua prima visita ufficiale. Appuntamento cruciale con il Premier Renzi a Palazzo Chigi alle 13.30 e ci sono tutte le premesse affinché questo possa essere davvero il momento del disgelo dopo le bordate reciproche sulla flessibilità. Tanti i dossier sul tavolo, investimenti, politiche di bilancio, banche e immigrazione. Renzi tornerà ancora una volta a chiedere più flessibilità per la legge di stabilità e a insistere sulla necessità di cambiare rotta la politica economica europea. Altro tema caldo, l'immigrazione. Alla luce delle tensioni che attraversano tutta Europa, in particolare la rotta balcanica con le misure restrittive volute da Vienna e timori di afflussi maggiori di migranti anche in Italia. Qui la posizione di Roma coincide con quella della Commissione. No a una mini Schengen, sì alla redistribuzione dei migranti. E infine le banche con le asimmetrie dell'unione bancaria e la rigidità delle regole europee sugli aiuti di Stato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La crisi migranti resta l'alta tensione, dalla Macedonia a Calais. Le tensioni che attraversano l'Europa riguardo alla crisi dei flussi migratori preoccupano anche la Russia. Lo ha detto stamattina il capo dell'Agenzia federale per l'immigrazione russa, Romodanovsky. L'esclusione dal vertice tra Vienna e i Paesi Baltici della Grecia continua ad avere ripercussioni diplomatiche. Dopo aver richiamato il proprio ambasciatore a Vienna, Atene oggi ha rifiutato la richiesta di visita avanzata dal ministro degli interni austriaco. E mentre al confine franco-belga si teme la pressione dei profughi che sono ora accampati nella giungla di Calais, che sta per essere sgomberata, il serpente dei migranti modifica la sua rotta e si sposta verso ovest. Se sul confine macedone premono più di 2.000 rifugiati che hanno sfondato le barriere di recinzione, un gruppo di 15 pakistani è stato invece intercettato in Albania nelle ultime ore, mentre cercava la via verso nord puntando sul Montenegro. Un segnale chiaro: bloccata la porta macedone verso i Balcani, la nuova rotta punta verso l'Albania e poi la Puglia. Si dice che gli scafisti stiano già preparando i motori dei gommoni per questo nuovo remunerativo esodo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine parliamo di salute alimentare. Il glifosato, l'erbicida più diffuso al mondo, pone la comunità scientifica davanti a un bivio. Da un lato l'OMS, che l'anno scorso lo aveva classificato tra i prodotti probabilmente cancerogeni. Dall'altro c'è l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che ha smentito la tossicità o la possibilità che aumenti il rischio di cancro negli uomini. Ora però la questione non è più scientifica, si fa anche politica. La Commissione Europea infatti sarà chiamata nei prossimi giorni a rinnovare il permesso di usarlo in Europa per i prossimi 15 anni e il terreno è scivoloso, anche perché sulla decisione potrebbe pesare la notizia del ritrovamento di tracce dell'erbicida su 14 marche di birre tedesche. Ma per l'Istituto federale tedesco per la valutazione del rischio i residui di glifosato nella birra sono talmente bassi che un adulto dovrebbe bere attorno ai 1000 litri di birra al giorno per assumerne una quantità preoccupante. Sentiamo invece Giorgio Calabrese, presidente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare. Per quello dei tumori, un aumento dell'increase della stimolazione nel tempo, naturalmente non bevendo una birra o comunque non prendendo quel prodotto che potrebbe avere questo glifosato. Dall'altra parte stiamo vedendo con le ricerche che stiamo facendo che ad esempio c'è una maggiore sensibilizzazione dei villi intestinali che si appiattiscono sempre di più, favorendo l'insorgenza di malattie che sono di natura genetica ma che poi fino in fondo molto spesso restano silenti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per l'appuntamento europeo. Ora naturalmente le notizie sportive con tutti i convocati. Noi ci risentiamo lunedì. Un ottimo fine settimana a tutti voi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.